Buonasera, sono Fernanda Donchi, la coordinatrice cittadinanza attiva della provincia di Como. Non è stato facile dare un titolo a questa serata, Antichi amori e anime di Terbiano. È nato dopo, mi sono ricordata di un film del primo degli anni 70, Il Padrino. È un film che forse tutti hanno visto, dove ho visto la potenza del padrino, il ruolo della famiglia e la forza della donna nella gestione della famiglia mafiosa. Negli anni successivi pensavamo, cioè soprattutto io, pensavo che il problema mafia o le mafie erano molto distanti da noi. Io le vedevo solo nei film, le vedevo solo nei film. Poi, col passare del tempo, è successa una cosa che mi aveva veramente colpito. Hanno ucciso Peppino Impastato. La sua morte era passata inosservata perché la sua morte coincideva con il ritrovamento di Aldo Moro. Ma a distanza di tempo, la madre, sempre il ruolo forte della famiglia, la madre e il fratello, hanno proseguito il cammino di Peppino. Peppino Impastato era una persona giovane, scacciato dalla famiglia, dal padre mafioso, e si è fatto tutto un percorso parlando nel suo paese e coinvolgendo la madre e il fratello sul problema della mafia. Peppino è stato eletto simbolicamente consigliere comunale nel suo paese. Questa cosa è la forza dei suoi paesani che hanno voluto portare avanti il discorso e la forza di Peppino, ogni tanto mi torna in mente, però cercavo sempre di escludere, di allontanarla, forse per la paura di dire anche sul mio territorio c'è la mafia. Ero quasi incredula, ma sollecitata da un amico che diceva: ma quando ne parliamo? Perché guardati intorno, no? Tutti i paesi stanno diventando dei territori di cemento. La droga sta andando quasi non in tutte le case, però c'è paura della scuola, la trovi per la strada. E allora, adagio adagio, ho cominciato a dire: vediamo se effettivamente esiste questo problema sul mio territorio. Sono andata su Google, semplicemente su Google ho messo Mafia Mariano. Sono uscite, non vi dico quante pagine. E da allora cercavo sempre di fare una rassegna stampa che avrebbe dato un libro, quasi un processo infinito. A un certo punto, quest'estate, ho interrotto di fare la collezione di questa rassegna stampa e ho detto: parliamone, parliamone anche simbolicamente, perché noi siamo qui, siamo tranquilli, però sempre ricordo delle persone, delle donne e bambine morti nell'acido. Pensando a 100 passi, che c'era distanza dalla casa di Peppino al capo mafioso del suo paese, 100 passi sono tanti. Noi a piccoli passi, da oggi altri hanno fatto lo stesso tipo di percorsi, a piccoli passi cerchiamo di affrontare, di capire cosa sta succedendo nel nostro territorio. Abbiamo ancora paura di parlare, di affrontare questo problema, che non è un problema, forse è la parola che più ci coinvolge. Allora abbiamo deciso di parlarne pubblicamente con la nostra associazione, con Paolo Moretti, che è autore del libro La mafia padana, Enzo La Torracca, che è un nostro avvocato della rete Giustizia e diritti di cittadinanza attiva, e con Massimo Pugnoli, che è un esperto sui problemi della mafia. Grazie Fernanda. Grazie mille, io sono Massimo, come ha detto giustamente Fernanda, Massimo Brugnoli, e da una decina d'anni circa mi occupo di incontri sulle mafie, sulla criminalità organizzata nella provincia di Como. Scrivo anche su riviste come Antimafia 2000, ho pubblicato su Narcomafie, Orizzonti Nuovi, riviste, insomma, specializzate in questo settore. Vi faccio i complimenti per essere qui stasera, in una fredda serata di novembre, partecipare a un incontro sulle mafie e sulla criminalità organizzata in provincia di Como. Devo dire che è una cosa che merita rispetto e merita attenzione. Devo dire che, ne parlavamo prima anche con Paolo, una decina d'anni fa, quando io ho cominciato a fare questi incontri, non era così. Questi incontri non erano così, così frequenti e non erano così partecipati anche come interesse da parte del pubblico. Significa che negli ultimi anni effettivamente è cambiato qualcosa e sta cambiando qualcosa anche nella percezione delle persone. Fino a pochi anni fa parlare di mafie, soprattutto parlare di mafie a nord, poteva sembrare una cosa una cosa quasi lunare. Oggi invece sappiamo bene che non è così. È di una settimana fa circa la sentenza di primo grado del processo relativo all'inchiesta Infinito, di cui probabilmente molti di voi avranno sentito parlare. È probabilmente la più grande inchiesta che è stata fatta sull'Andrangheta, sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in Lombardia, e in buona parte, inchiesta che in buona parte riguarda anche la nostra zona, la Brianza e il Comasco. Si è conclusa la sentenza di primo grado per quello che riguarda gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato con 110 condanne, e diverse delle quali riguardano affiliati o boss di locali. Le locali in gergo sono le organizzazioni sul territorio dell'Andrangheta, proprio della nostra zona. Per esempio, nella nostra zona è stata evidenziata da questa indagine la presenza della locale di Erba, di Canzo, e anche di quella di Mariano Comensi, dove ci troviamo stasera. Quindi argomento mai come ora è interessante, e che le persone sentono che vengono toccate da vicino in questo argomento. Anche il quotidiano della nostra zona, la provincia di Como, avrete probabilmente notato che negli ultimi tempi sta dedicando diversi articoli, diversi pezzi relativi al problema delle infiltrazioni mafiose e in particolare dell'Andrangheta nella nostra provincia. Pezzi firmati tra l'altro da Paolo Moretti, che è tra i relatori di questa sera. Una ventina di giorni fa, per esempio, un pezzo che ha fatto molto scalpore è stato quello relativo alla violenza, agli attentati, alle intimidazioni messe in atto dall'Andrangheta nei confronti di aziende, cantieri, uffici della nostra provincia. Una quarantina circa, una quarantina circa di attentati che sono stati compiuti negli ultimi anni nella nostra provincia da l'Andrangheta, o comunque in cui l'Andrangheta è fortemente sospettata di essere coinvolta. La presenza delle mafie in Lombardia e nella nostra provincia non è d'altra parte una novità di questi ultimi anni, anche se solo ultimamente che l'argomento è diventato di dibattito frequente. Pensate che nel 1976, quindi più di 30, ormai 35 anni fa, la Commissione parlamentare antimafia, parlando dell'arresto di Luciano Liggio, la Primula Rossa di Corleone, arrestato a Milano nel 1974, due anni prima, scriveva testualmente queste parole testuali: seguire la vicenda di Luciano Liggio da Corleone a Milano significa risalire la storia di Cosa Nostra negli ultimi 25 anni, 25 anni nel 1976, quindi fate un po' voi il conto, sono ormai una sessantina d'anni che le mafie sono presenti in Lombardia e nel nostro territorio. A Milano, per esempio, sono stati arrestati alcuni tra i più pericolosi latitanti nella storia di Cosa Nostra. Ho citato Luciano Liggio nel 74, nel 94 è stata la volta dei fratelli Graviano, eccetera, eccetera. Addirittura Palazzo Marino, la pubblica amministrazione di Milano, è stata toccata direttamente da inchieste sui rapporti tra politica e mafia. Qualcuno di voi ricorderà, per esempio, la Duomo Connection di fine anni 80, primi anni 90, che arrivò a toccare direttamente l'allora sindaco Paolo Pilitteri, il quale Pilitteri poi commentò l'eventuale, secondo lui molto eventuale, presenza delle mafie a Milano con le famose parole, che poi passarono alla storia: mafia a Milano, la piovra a Milano sono favole, sono soltanto favole, non potrà mai esistere una realtà del genere nella nostra regione. Parole ben rispecchiate in epoca ben più recente dall'ex sindaco Letizia Moratti, oppure addirittura dal prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, che nel 2010, di fronte alla commissione parlamentare antimafia, disse che non si può parlare della presenza della mafia a Milano. Magari sì, si può parlare della presenza di singole famiglie mafiose, ma di un'entità che si chiama mafia, Cosa Nostra o 'Ndrangheta a Milano, vera e propria, non se ne può parlare. Per quello che riguarda più specificamente la nostra zona, ormai sappiamo che da parecchi anni la realtà più pericolosa, l'organizzazione criminale più pericolosa, non è tanto Cosa Nostra, ma è la 'Ndrangheta. Importanti inchieste sono state fatte già dagli anni 90, inchieste come Countdown, Fiori di San Vito, Wall Street, eccetera, che già negli anni 90, erano negli anni 90, però riguardavano comunque fatti e situazioni che si erano verificate negli anni 80, se non già negli anni 70. Il pubblico ministero del processo Wall Street, Armando Spataro, fece delle dichiarazioni molto dure riguardo al nostro territorio. Disse che il tessuto sociale, economico e imprenditoriale lombardo, e in particolare della zona di Lecco, perché il processo Wall Street riguardava soprattutto la zona di Lecco, insomma questo tessuto sano, sociale e imprenditoriale, non mostra segni di reazione e di rigetto nei confronti della presenza di questi soggetti. Tanto è vero che il principale protagonista di quel processo, di quell'inchiesta, il signor Franco Cocco Trovato, che qualcuno avrà sentito nominare, che è diventato un po' l'archetipo del boss della 'Ndrangheta, che ha fatto carriera, che ha fatto affari in Lombardia, questo signore nel 1988 fu premiato dall'Unione Commercianti di Lecco con un'importante onorificenza, la Croce di Betlemme. È vero che non era ancora stato indagato, arrestato nell'88, ma tutti sapevano, o perlomeno potevano intuire, chi fosse questo signore. E appunto nell'attualità le cose non è che siano migliorate, tutt'altro. Un anno fa, esattamente un anno fa, nel novembre del 2010, c'è stata per la prima volta lo scioglimento di un consiglio comunale in Lombardia a causa di infiltrazioni mafiose, ad Esio, dove la maggioranza, l'allora maggioranza centrodestra, PDL, più Lega, è venuta meno a causa delle conseguenze dell'inchiesta Infinito, di cui poi sicuramente i nostri relatori ci sapranno dare ulteriori dettagli. Per la prima volta un consiglio comunale in Lombardia si è sciolto a causa di infiltrazioni della 'Ndrangheta, perché alcuni politici locali sono stati coinvolti in queste inchieste. E appunto l'attuale processo basato sull'inchiesta Infinito sta mettendo in luce dei fatti molto molto inquietanti. Al di là del numero degli indagati, delle persone rinviate a giudizio, processate e ora anche condannate in primo grado, ci sono alcuni aspetti secondo me che devono fare riflettere molto. Per esempio il fatto che, come ha denunciato il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Milano, Mita Boccassini, le denunce, quando è partita questa inchiesta, le denunce da parte di cittadini e di imprenditori anche sottoposti a vessazioni e minacce, sapete qua quanto ammontano? A quanto ammontavano? Vi do un piccolo indizio, è un numero che è compreso tra 1 e meno 1, quindi 0, non 1, non 2, non 3. Assolutamente zero denunce nel momento in cui è partita l'inchiesta. E la nostra zona, come dicevamo, è particolarmente colpita, particolarmente coinvolta. È stata messa in luce la presenza di locali, quindi di organizzazione della 'Ndrangheta nella nostra zona, nella nostra provincia, in particolare Canzo Asso, Erba e proprio Mariano Comense. Una delle condanne più alte riguardante la sentenza di settimana scorsa sull'inchiesta Infinito è stata emessa proprio a carico del boss, del capo della locale di Erba, Pasquale Caristo, condannato a 15 anni di reclusione per associazione per delinque, usura e reati vari, armi, traffico di stupefacenti, eccetera. Poi l'inchiesta infinito, diciamo che è solo la punta dell'iceberg probabilmente, perché negli ultimi anni accanto a questa inchiesta poi ne sono state sviluppate diverse altre. Ho qui un libro, Mafia Padana, che ha un autore qui presente, Paolo Moretti e Francesco De Filippo, libro che consiglio a tutti coloro che non l'abbiano ancora letto, che parla diffusamente di queste inchieste, dell'inchiesta infinito e anche delle altre inchieste che negli ultimi anni hanno riguardato il nostro territorio. Ne cito una per tutti, l'inchiesta, la cosiddetta inchiesta Tenacia, che ha visto come protagonista la Perego-Strade di Cassago Brianza. Ora, il processo è ancora in corso, il titolare Ivan Perego, che tra l'altro è di Cantù, deve ancora essere giudicato anche in primo grado, perché ha scelto di non sottoporsi a rito abbreviato, ma di sottoporsi all'intero procedimento processuale, quindi va rispettata la presunzione di non colpevolezza. Nello stesso tempo il caso della Perego Strada è considerato, prendendo per buona l'ipotesi accusatoria, un caso di scuola di quello che riguarda, per quello che riguarda la collusione fra ambienti criminali, ambienti dell'andrangheta e l'imprenditoria, la cosiddetta imprenditoria sana, Brianzola, Comasca, eccetera. Uno dei classici casi in cui le convenienze sono reciproche tra l'imprenditore e l'andrangheta, ma finisce poi che lo stesso imprenditore, dopo aver magari a volte cercato lui il contatto con il criminale, con il mafioso, ne finisce coinvolto e ne finisce travolto. Di questo e di altro, appunto, abbiamo il piacere di discutere con due relatori che ritengo assolutamente di spicco, l'avvocato Enzo La Porrata alla mia destra e Paolo Moretti, come ho detto, giornalista, professionista, giornalista della provincia, autore del libro Mafia Padana. Passo subito la parola a Paolo, che sicuramente ci saprà dare degli spunti ulteriori di riflessione su queste inchieste. Sì, grazie Massimo, grazie a tutti. La sottolineatura di Massimo all'inizio del suo intervento, un ringraziamento per la vostra presenza, la voglio fare anch'io. C'è in tutte le cose un po' della vita, c'è sempre un gioco di causa ed effetto, anche in questa vicenda dell'andrangheta e del più che infiltrazione, ormai possiamo parlare tranquillamente di radicamento del clan criminali calabresi in Lombardia, nelle nostre zone, se è stata possibile proprio per un gioco di causa effetto, cioè evidentemente non ha trovato resistenza nel territorio e in quella parte di tessuto che si supponeva e si suppone debba essere sano e sia ancora sano. Quindi la vostra presenza stasera fa ben sperare. Io devo dire che tutte le volte che partecipo a un incontro in cui si dibatte, mi meraviglio positivamente e piacevolmente, perché uscire di casa in una sera fredda, decidere di ascoltare un tema che certo non è un tema piacevole, non fa sorridere, anzi è abbastanza ostico, è un bel esempio di interesse ed è anche un bel esempio di resistenza, quantomeno di tentativo di resistere a questo fenomeno. Io vi devo confessare che neanche io immaginavo che il fenomeno fosse così diffuso. Ho cominciato a occuparmene per lavoro, perché faccio la cronaca nera giudiziaria per il quotidiano della provincia e quindi gioco forza tutte le inchieste che hanno riguardato la criminalità organizzata del nostro territorio, me ne sono dovuto occupare. L'inchiesta infinito ha avuto l'enorme pregio di far comprendere anche a noi, che abbiamo sempre scritto di criminalità organizzata, ma probabilmente anche noi non credevamo che il fenomeno fosse così grave nel territorio, ha avuto il grande pregio di far capire che invece il fenomeno è grave, il fenomeno è preoccupante, che la presenza è non più... Forse nel libro usiamo troppo spesso la parola infiltrazione, ma non è più un'infiltrazione, ma un vero e proprio radicamento in quello che è il tessuto sano di questo territorio. Un radicamento che è andato a toccare l'economia, un radicamento che è andato a toccare la pubblica amministrazione, come abbiamo sentito. Quante intercettazioni telefoniche ci sono nel copioso fascicolo, anzi nei copiosi fascicoli sono più di 100 faldoni che compongono l'inchiesta Infinito, quante intercettazioni telefoniche di quelli che sono stati imputati, condannati in corrido abbreviato perché ritenuti colpevoli di associazione mafiosa, intercettazioni telefoniche in cui si parlava della possibilità di candidarsi alle elezioni comunali dei propri paesi. Quante telefonate in cui si cercava di organizzare delle liste e di cercare di condurre e veicolare i voti delle persone su determinati politici che erano più, come dire, più benvoluti dalle organizzazioni criminali. Ecco, ce ne sono state tantissime e ce ne sono molte che abbiamo anche pubblicato, avete letto sui vari quotidiani, perché hanno fatto scalpore. Devo dire che fra le 8 persone, le 9 persone che sono state assolte dalle accuse del processo Infinito nell'udienza preliminare che si è conclusa sabato scorso, c'è anche un politico, l'ex assessore all'amministrazione provinciale di Milano Oliverio, che era stato considerato un colluso alla criminalità organizzata, all'Ndrangheta, in particolar modo per i suoi rapporti con la Perego Strade e con Salvatore Strangio, che è considerato l'amministratore di fatto della Perego Strade quando Ivano Perego, secondo l'accusa, avrebbe consegnato le chiavi della sua azienda appunto all'Ndrangheta. Salvatore Strangio peraltro è stato condannato, mi sembra, vado a memoria, sta parlando di una decina di anni di carcere sicuramente. Questo fa pensare, ipotizzare che evidentemente il giudice abbia ritenuto che nella vicenda Perego qualcosa di vero rispetto a quanto contenuto negli atti ci sia. Bisognerà vedere adesso e capire quanto si ritenga che Perego fosse consapevole. In realtà, se, leggendo le intercettazioni telefoniche, pare che una certa consapevolezza, uso un eufemismo quando dico certa, ci sia, nel senso che Perego, ad esempio, quando a un certo punto tale Rocco Cristello, da Mariano Comensi, anzi da Cabiate, ma presunto affiliato, secondo la sentenza di primo grado che c'è stata sabato scorso della locale di Mariano Comense dell'Ndrangheta, ha cominciato a collaborare e a dare una mano a Ivano Perego. A un certo punto succede che nella vicenda Perego Strangio viene messo da parte perché sbaglia diverse mosse, diversi tentativi di acquisire altre società, e i clan decidono di metterlo da parte anche perché la Perego è ormai in condizioni economiche disastrose e il fallimento è dietro l'angolo. Viene messo come persona di collegamento fra i clan e la Perego Strade, appunto Rocco Cristello. E cosa dice Ivano Perego quando parla di Rocco Cristello? Ivano Perego dice: adesso c'ho un altro calabrese con me, questo qui è uno che gli hanno ammazzato anche il fratello, in realtà era il cugino, è uno che gli hanno ammazzato anche il fratello. E Rocco Perego dice sempre: c'ho i miei calabrotti, li mando io nel cantiere quando deve dirimere le questioni con magari qualche autotrasportatore che insomma fa capire che non che vuol fare un po' di storie. Ecco, questa è la consapevolezza di molti che accettano, e a proposito di anime vendute al diavolo, che accettano di scendere a patti con personaggi legati alla criminalità organizzata. E qui veniamo alle anime vendute al diavolo. È un capitolo, secondo me, molto interessante molto importante, che fa capire anche il perché la criminalità organizzata è così presente nelle nostre città. A un certo punto l'Ndrangheta si è ha cambiato un po' pelle, ha lasciato perdere i sequestri di persona, ha cominciato a occuparsi di economia, tra virgolette, pulita, ha capito che questa è una regione ricca in cui poter tranquillamente reinvestire l'enorme capitale che arriva da, per esempio, dal traffico di sostanze stupefacenti, che resta comunque la attività principe delle organizzazioni criminali. Se trovo, riesco, vi darei anche un dato su quanta cocaina si suppone che giri soltanto a Milano, tanto per farvi capire, sempre che lo trovi, eccolo qua, se ci siamo, tanto per far capire a non lo trovo, i calcoli sono che almeno una persona su 10 a Milano faccia uso di sostanze di cocaina. Capite che l'entità del fenomeno è veramente ampia. L'Andrangheta è forse la prima azienda, se vogliamo chiamarla come azienda, ha fatturato più grande d'Europa in quanto azienda, ovviamente, che usa percorre un percorso non certo legale, muove denaro e quindi ha tanto denaro da investire nell'attività legale. Da qui appunto l'interesse di tutta una serie di persone che nulla avevano a che fare con la criminalità organizzata, che nulla avevano a che fare con un determinato tipo di forma mentale di rapporti con i clan dell'Andrangheta, ma che accettano di scendere a patti perché è conveniente, perché si guadagna. Questa cosa qui la dice molto bene, lo dicono molto bene i pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia, il cui lavoro è secondo me tutt'altro che invidiabile, nel senso che solo riuscire a unire i tasselli di tutte quelle intercettazioni telefoniche, le impedinamenti, le osservazioni, i sequestri di armi, i nomi che emergono ogni volta che viene sentito qualcuno. Ecco, soltanto per fare questo lavoro penso che ci voglia una capacità che va ben oltre il normale. Io personalmente, va detto, ho una pessima memoria per i nomi, mi devo sempre scrivere, faccio fatica spesso a ricordarmi, a star dietro a tutti i nomi, devo andare a recuperare i vari atti giudiziari tutte le volte che scrivo per ricordarmi di cosa sto parlando, perché non è, pur avendone scritto, spesso la quotidianità ti impedisce ti costringe ad andare avanti e quindi perdi un po' di lucidità. Ecco, loro sono riusciti, io ho letto la requisitoria del PM Dolci durante l'atto d'accusa finale, diciamo, del pubblico ministero durante l'udienza preliminare infinito, ed è una requisitoria meravigliosa, fatta con grande lucidità, che ripercorre tutta la storia recente dell'Andrangheta in Lombardia, che ripercorre tutti i vari, che lega tutti i vari rapporti, perché poi tutte queste locali di Andrangheta sono tutte collegate le une alle altre, non lavorano mai in modo isolato, in modo separato. Ad esempio, qui la locale di Mariano Comense, Salvatore Muscatello, che è ritenuto essere il capo della locale di Mariano Comense, che secondo gli inquirenti ha la dote di Trequartino, che è la dote due gradini sotto a quella di Padrino, Salvatore Muscatello qui ha ricevuto più volte la visita, per esempio, di Carmelo Novella. Carmelo Novella è stato il capo della Lombardia, così veniva chiamata l'Andrangheta della Lombardia, per diversi anni, fino a quando nel 2008 non viene ammazzato in un bar di San Vittore Olona, mentre sta prendendo un caffè con un amico al bar, entrano due persone, tra cui Antonino Bellnome di Inverigo, che è un rarissimo pentito di Andrangheta, insieme appunto a Antonino Bellnome entrano, ordinano un caffè, non aspettano che arrivi il caffè, è il tempo di girarsi, estrarre la pistola, chiamare il nome di Novella, sparargli in pieno giorno con locale pieno e uscire in tutta tranquillità per poi allontanarsi con in moto. Il 28 febbraio prossimo comincerà il processo per l'omicidio Carmelo Novella, gli autori, sia i mandanti che gli esecutori dell'omicidio, i nomi si conoscono, quantomeno i presunti autori e mandanti, i nomi si conoscono perché appunto Antonino Bellone ha deciso di collaborare con la magistratura e di raccontare la sua vita all'interno dell'Andrangheta. Ed è un racconto, noi abbiamo avuto, io e Francesco De Filippo abbiamo avuto la fortuna di avere in mano il memoriale scritto a penna e a mano da Antonino Bellone mentre era in carcere. Sono 57 pagine scritte fitte tutte in stampatello, memoria di un padrino le ha intitolate. E ci sono degli spunti che sono interessantissimi, c'è tutta la storia, il suo vissuto all'interno della criminalità organizzata. Lui dice che da bambino lui ha respirato criminalità organizzata, ha respirato questi rapporti malati tra appartenenti affiliati ai clan. Fin da bambino ha avuto un rapporto praticamente quotidiano con le armi. È cresciuto con l'idea che la cosa più importante fosse fare carriera all'interno dell'Andrangheta. Viene affiliato, racconta tutto il rito di affiliazione, poi magari possiamo leggere alcuni passi, che è un rito molto arcaico, un rito molto, a volte sembra quasi ridicolo, sembra quasi buffo, ti verrebbe quasi da ridere se non fosse che da ridere veramente non c'è niente, visto il significato di questo rito. Rito di iniziazione e di affiliazione. Poi lui fa una carriera molto veloce, diventa capo di una locale qui proprio fuori Mariano, se non mi ricordo più se Desio o Giussano, e quando viene arrestato, mentre è in isolamento, comincia a pensare soprattutto alla sua famiglia e ai suoi figli. E comincia a pensare che, lo scrive lui e lo spiega lui ai magistrati quando un giorno dice vorrei parlare con voi perché ho deciso di collaborare, e loro ovviamente i magistrati si avvicinano a queste persone con un po' di scetticismo, perché spesso e volentieri la collaborazione magari è semplicemente per cercare di ottenere uno sconto e non è genuina. Bene, loro si avvicinano per cercare di capire i reali motivi per cui decide di collaborare. La prima cosa che dice è: ho capito che dall'Andrangheta se ne esce soltanto in due modi, o passando la vita in carcere oppure ammazzato. Questo è quello che lui dice anche nelle sue memorie. Carmelo Novella lo ha vissuto sulla sua pelle, ucciso perché aveva pensato e ipotizzato di poter trasformare la realtà dei clan di 'Ndrangheta qui in Lombardia come una realtà avulsa dai clan calabresi, cioè fare una sorta di secessione del federalismo in salsa 'ndranghetista. Questa cosa ovviamente non è stata, accettata dai clan calabresi, e proprio dalla Calabria è partito l'ordine di uccidere Carmelo Novella. Qui a Mariano Comense Carmelo Novella viene spesso a parlare con Salvatore Muscatello, nonostante fosse avesse l'obbligo di dimora a San Vittore Olona e quindi uscire fosse un po' un rischio. Questo, dicono i magistrati, farebbe capire qual è il livello di importanza di Salvatore Muscatello nelle dinamiche dell'Andrangheta. Peraltro Muscatello era già stato coinvolto nell'inchiesta Fiori della Notte di San Vito, che è stata la prima inchiesta, diciamo, che ha fatto capire che Como comunque non era un territorio diciamo privo dei germi della criminalità organizzata. Salvatore Muscatello, che proprio nei mesi in cui successivi alla morte in novella, quando si comincia a discutere su quale sarà, quale potrà essere il successore alla guida della Lombardia, comincia a ricevere delle visite e anche a muovere i suoi uomini affinché vadano a informarsi su quali sono le decisioni prese in Calabria. Proprio qui, alla Felice Villa di Mariano Comense, i carabinieri del reparto operativo di Monza si piazzano un giorno di fine estate 2008 e cominciano a fotografare tutta una serie di SUV cariche di persone sospettate di essere affiliate ai clan dell''Ndrangheta, i vari capi delle locali qui attorno, e registrano e annotano questo summit di 'Ndrangheta che avviene all'interno di una stanza, se non ricordo male la stanza 8, non so se però mi ricordo male uno di questi atti, della Felice Villa di Mariano Comense, dove tutti quanti entrano e discutono proprio di quelle che sono le decisioni prese in Calabria sulla successione di Novella. Muscatello parteciperà anche, ad esempio, al famoso summit di Paderno Dugnano all'interno della sala Falcone Borsellino, il circolo Arci, vi ricorderete, ha fatto scalpore sia le immagini che le fotografie ed è l'ennesimo sfregio inaugurato a Salvatore Borsellino, peraltro proprio di questo, su questo tema, scusate se salto un po' di palo in frasca, poi dopo ovviamente voi, anzi io, è una richiesta, intervenite quando volete e riportate il tema e l'argomento sui binari che più preferite seguire. Comunque dicevo che Salvatore Borsellino è stato un mese fa a Como, un mese e mezzo fa, e quando l'ho chiamato per un'intervista sul giornale per presentare appunto l'appuntamento che lui aveva a Como, abbiamo parlato proprio di questo episodio, e lui ha detto: è una cosa che mi ha fatto profondamente male perché è stato uno sfregio ovviamente a quella che era la figura di mio fratello, di Giovanni Falcone, ma ha fatto male perché io in qualche modo ho partecipato a un'inaugurazione e ho dato un passaporto di legalità, di legittimità, di importanza a un luogo che è stato profanato dalla criminalità organizzata e dall''Ndrangheta. Quella della profanazione di luoghi sacri per lo Stato è un po' anche un modo di vivere dell''Ndrangheta. Le locali di 'Ndrangheta, non so se lo sapete, ma esistono solo dove ci sono delle stazioni dei carabinieri. La locale di 'Ndrangheta si apre se in quel paese, in quella città, c'è una stazione dei carabinieri, se no non si apre, proprio per creare questa sorta di antistato, no? Di guerra allo Stato. Questa è l''Ndrangheta. Così sto andando un po' a braccio, mi rendo conto anche il tema è talmente vasto che si possono toccare miliardi di argomenti, quindi sì, chiedo io a Massimo di certo, tirare un po' le briglie. Staremo a sentire a parlarti per tantissimo tempo, Paolo. E appunto, mentre parlavi, mi venivano in mente una serie di riflessioni. Per esempio, quando hai parlato del fatto di quanta droga, in particolare quanta cocaina, si viene spacciata quotidianamente nella nostra regione, in particolare sulla piazza di Milano, ma anche nelle nostre zone, che comunque la nostra è una delle zone più ricche d'Italia, se non d'Europa, quindi ovviamente è un terreno fertile per questo genere di attività. Mi veniva in mente un aneddoto, secondo me molto interessante, che è citato in alcuni libri su Cosa Nostra, da autori come Max Parisi o Peter Gomez. E che cosa raccontano questi formidabili, secondo me, giornalisti? Raccontano di un episodio di un summit di mafia che sarebbe avvenuto ad Atlantic City negli Stati Uniti nel 1980. E a questo summit avrebbero partecipato le principali famiglie di Cosa Nostra americana, i Gambino, i Genovese, i Buonanno, eccetera, e le principali famiglie di Cosa Nostra siciliana, Cosa Nostra, quella parte di Cosa Nostra che allora nel 1980 era quella parte di Cosa Nostra che stava vincendo la guerra di mafia, cioè la mafia di Totorina, la feroce mafia di Corleonesi che stava prendendo il sopravvento in quel momento. E che cosa sarebbe successo in quel summit all'Atlantic City? Questi signori, chiamiamoli così, si sarebbero messi d'accordo sul fatto che Milano avrebbe dovuto diventare la capitale mondiale dello spaccio di droga, all'epoca soprattutto di eroina. E questo avrebbe implicato il fatto che atti violenti come, per esempio Paolo citava dei sequestri di persona che per lungo tempo sono state una delle maggiori fonti di reddito anche della 'Ndrangheta, Milano, la Lombardia degli anni 70 era infestata dalla piaga dei sequestri di persona, ma anche le violenze, gli omicidi, le minacce, gli attentati violenti eccetera dovevano sparire perché? Perché doveva iniziare la fase del grande silenzio, che era un elemento indispensabile affinché i grandi affari relativi al traffico di droga, di stupefacenti e al conseguente riciclaggio di denaro sporco che andava reimmesso nell'economia cosiddetta, per così dire, legale, insomma, questa tranquillità doveva essere necessaria per garantire il corretto e miglior svolgimento di questi affari attorno al business, in particolare attorno al business della droga. Infatti, da quel periodo, dall'inizio degli anni 80 in poi, a Milano spariscono anche personaggi magari minori, non strettamente legati a Cosa Nostra, come per esempio il Ballanzasca, o anche personaggi sì con legami con le mafie, ma tutto sommato non vostri, prima grandissimi, vari Suratelli, Paminuta, eccetera, vengono fatti sparire proprio da Cosa Nostra. Perché? Perché Milano doveva diventare una piazza tranquilla per poter essere il miglior ambiente per quello che riguardava lo spaccio delle sostanze stupefacenti e la gestione dei grandi affari. Oggi sappiamo che l'organizzazione criminale, la mafia principale che opera a Milano e Lombardia non è più Cosa Nostra, ma è la 'Ndrangheta. Quindi è facile capire come, anche perché effettivamente di grandi... cioè stragi in Lombardia ovviamente non sono mai state fatte, ma di atti criminali eclatanti se ne sentono ben pochi, solo quando diventano necessari, perché come nel caso di Carmelo Novella c'è una faida interna alla 'Ndrangheta o cose di questo genere, altrimenti il silenzio è il terreno migliore su cui prosperano le organizzazioni criminali. Quindi questa è una prima cosa che mi stava venendo in mente durante il tuo intervento. A proposito di droga, però, sì. Intervengo, a parte l'aspetto economico, il fatto di avere così tanti clienti permette alla 'Ndrangheta anche di avere un piccolo esercito di volonterosi che sono a disposizione per le piccole manovalanze o piccoli favori. Aveva impressionato un episodio raccontato in un fascicolo di inchieste del 2008 su un riciclaggio di denaro sporco in Svizzera, con la costituzione di una serie di società nella Svizzera tedesca da parte di persone in odore di 'Ndrangheta. Queste avevano utilizzato per riuscire ad aprire queste società una carta d'identità di un cittadino luganese, di Lugano, che era totalmente ignaro di tutto questo. In realtà la carta d'identità era stata rubata a questo signore dalla figlia, che era tossicodipendente. Praticamente in cambio di dose di droga la figlia ha venduto la carta d'identità del padre a persone che ovviamente lei non aveva la più pallida idea di cosa se ne dovessero fare di questa carta d'identità, ma l'ha consegnata in cambio appunto della droga, e poi questa carta d'identità balza fuori in un'inchiesta per riciclaggio di denaro sporco, un grosso giro dei clan della 'Ndrangheta, della piana di Pratica. E tra l'altro un'altra riflessione che mi stava venendo di fare, sempre relativo al tuo intervento di prima, riguarda l'aspetto più diciamo così umano, psicologico delle persone perché si tratta pur sempre di persone che entrano a far parte di queste organizzazioni criminali. In particolare, prima Paolo ha parlato di Antonino Bellnome, il boss dell'Andrangheta della locale di Giussano, che è diventato, che poi ha collaborato con la giustizia e ha dato una mano determinante nell'inchiesta infinita. Tra l'altro, uno dei pochissimi pentiti di Andrangheta. I pentiti di Andrangheta sono veramente pochi rispetto ai pentiti di Cosa Nostra, della Camorra. E Bellnome che cosa diceva? Diceva che lui lo sapeva, come chiunque entra nell'Andrangheta, che nel momento in cui entri in un'organizzazione del genere, tu lo sai che non potrai mai fare il percorso netto, cioè lo sai che prima o poi, e magari anche presto, finirai, hai due alternative, finisci o in carcere o finisci al cimitero, sono gli unici due modi che hai per poter uscire dall'Andrangheta. Però, ciò nonostante, pur sapendo questo, un sacco di persone entrano in queste organizzazioni criminali, pur sapendo che comunque quasi difficilmente riusciranno a morire di vecchiaia, per così dire. Questo ci deve far riflettere su quali sono i valori delle persone che decidono di entrare a far parte di queste organizzazioni, su quali distorsioni di valori possono avere queste persone che accettano di entrare a far parte di un'organizzazione per avere denaro, potere, ricchezza, pur sapendo che tutto questo potrebbe veramente finire come un battito di ciglia da un momento all'altro. In uno degli articoli che hai pubblicato in questi giorni sulla provincia, tu parli di un colloquio avvenuto nella sala colloqui del carcere di Milano tra un boss e suo figlio. Che cosa avviene in questo colloquio? Avviene che il padre dice al figlio: allora, potrebbe anche esserci in teoria la possibilità che tu possa uscire dall'Andrangheta, però dovresti essere disposto a vivere, a trovarti un lavoro normale, a vivere con uno stipendio da 1.000 euro al mese, poco più. Sei disposto a fare una vita del genere? Cioè, domanda retorica, come per dire, cioè, Ma sei pazzo? Cioè, fare una vita da trovarti un lavoro normale, senza potere, senza gloria, senza ricchezze, per 1.000 euro al mese? Questo effettivamente è una cosa che ci deve far riflettere, perché è importante, secondo me, riuscire a capire veramente la mentalità, la distorsione di valori che hanno i componenti di questa organizzazione criminale. È proprio importante per capire, perché noi che siamo al di fuori, che abbiamo una nostra rappresentazione della realtà sicuramente non criminale, è una cosa che non riusciamo nemmeno a capire, a concepire, ma dovremmo veramente capire alla base quali sono le motivazioni e i valori, secondo me, fortemente distorti che spingono un ragazzo entrare nell'Andrangheta. Tra l'altro, una delle cose che mi colpisce di più è che l'Andrangheta, in particolare, è un'organizzazione giovane. L'età media degli andranghetisti è, in un paese come il nostro, che diventa sempre più vecchio e sempre più povero di energia da un certo punto di vista, l'Andrangheta è un'organizzazione che ha molto fascino, che ha molta presa sui giovani. Ovviamente in Calabria, però appunto, non è detto che, anzi, alcuni degli imprenditori che sono attratti dall'entrare in imprenditori anche lombardi che sono attratti dal fatto di entrare in contatto con l'Andrangheta per i vantaggi che abbiamo detto prima, alcuni di questi sappiamo che sono molto giovani, giusto? Sì, sì, giustissimo. Peraltro, secondo me, ovviamente questi imprenditori lo fanno per motivi economici, per motivi assolutamente di guadagno economico personale, mentre tanti altri giovani lo fanno proprio perché considerano l'andranghettista come quasi come un eroe, no? Per cui c'è questo fascino della violenza, questo fascino dell'essere, di poter andare in giro per il paese stimato e rispettato da tutti. Mi aveva impressionato, parlo di Camorra e non d'Andrangheta, quelle immagini durante una festa in un rione napoletano in cui arriva il capo della Camorra, del quartiere, con una limousine e tutti a venerarlo durante una cerimonia religiosa, e in pieno giorno, la domenica, c'era praticamente state 5.000, 6.000 persone, forse di più in strada, che veneravano questo boss della Camorra, tutti riconosciuti proprio come boss della Camorra. Ecco, questa cosa qui fa paurosamente presa nei giovani, un po' sicuramente colpa di un'iconografia sempre più votata verso la violenza, un po' anche perché probabilmente non si spiega e non affascina quell'eroismo quotidiano, per esempio, delle persone che vivono con 1.000 euro al mese e che devono far quadrare i conti magari con figli a carico con 1.000 euro al mese. Quello non viene considerato eroismo, quando in realtà forse è il vero eroismo, perché è molto più comodo fare il grande con una pistola alla cinta dei pantaloni e con soldi che tu hai rubato e hai estorto a qualcun altro. Ecco, c'è questo non affascina l'eroismo quotidiano, l'eroismo delle persone, mi verrebbe da dire semplici, ma è un termine completamente sbagliato, non affascina come la vigliaccheria di questi delinquenti. Sì, sicuramente. E poi a questo punto è fin troppo facile fare la battuta, che però purtroppo non è solo una battuta, parlando di eroi e parlando di valori a volte distorti in questo paese. Ricordiamo che un importante personaggio delle istituzioni pochi anni fa ha definito eroe un mafioso per il fatto che questo signore, pur avendo passato parecchio tempo in carcere, non ha mai fatto il nome di determinate persone. Ecco, tant'è vero che appunto Salvatore Borsellino, nel suo intervento che ha fatto a Reggio a ottobre, ha detto chiaramente: noi non accettiamo più personaggi delle istituzioni nelle nostre commemorazioni che facciamo il 19 luglio di tutti gli anni riguardo alla commemorazione delle vittime di Via D'Amelio. Perché? Perché voi tenetevi i vostri eroi, voi uomini delle istituzioni, che noi ci teniamo i nostri. Anzi, addirittura Borsellino ha detto: mi hanno addirittura tolto la possibilità di chiamare eroi i ragazzi che sono morti insieme a mio fratello, perché una volta che è stata accettata la definizione di eroe relativa a un personaggio del genere, io non posso più, non so, ditemi voi che parola devo usare martiri, non so, ditemi, mi hanno tolto anche la possibilità di usare la parola eroi. E un'altra cosa, sempre tornando al discorso di questa gerarchia di valori che hanno i ragazzi che si avvicinano alla 'ndrangheta, proprio mi venivano in mente le dichiarazioni di Antonino Bellnome sulla vita quotidiana dei ragazzi e anche dei boss dell'andrangheta, che viene vista così affascinante soprattutto dai ragazzi giovani che si avvicinano a questo mondo. Bellnome nelle sue dichiarazioni dice fa proprio traspirare, fa proprio capire l'ebbrezza che è data, oltre che dal denaro, dal potere che dà il fatto di appartenere ad un'organizzazione criminale come l'andrangheta. Del nome dice le cose belle, i piaceri veri erano il fatto di andare nei locali senza pagare, mai, non si pagava mai da nessuna parte, ma non è ovviamente il fatto di non pagare, era il fatto di essere riconosciuti come dei personaggi potenti e influenti a cui, e da guardare con timore, con rispetto, poi non ci si poteva nemmeno permettere di chiedere di pagare un biglietto per entrare in discoteca. Oppure il fatto che a volte le persone ti salutavano per il solo fatto di far vedere agli altri che ti conoscevano. Quindi se io conosco il personaggio, vuol dire che sono figo, vuol dire che anch'io ho potere, vuol dire che anch'io sono una persona rispettabile. E finché lo fai con George Clooney o con Cristiano Ronaldo, uno dice: vabbè, lo posso anche capire. Ma quando lo fai con personaggi come Antonino Bellnome e altri suoi degni compari, la cosa diventa inquietante. Oppure il fatto che io, cioè quando ci sedevamo a tavola, nessuno poteva mangiare prima che io lo decidessi io e lo dicessi io. C'è un passaggio che volevo coinvolgere, sì. Enzo, se permetti, Massimo. Sì, sì. Sulla riflessione e sull'intervento di Salvatore Borsellino, quando parla delle istituzioni, dice: io non voglio gente delle istituzioni alle mie commemorazioni. Ecco, io questa cosa qui la trovo triste, ma non triste perché Borsellino lo fa, triste perché si arriva a questo livello. Secondo me si parla spesso allo Stato che combatte l'andrangheta, quante volte quando c'è l'arresto del boss il ministro di turno mette il cappello su quell'arresto, no? E trasforma in un evento politico quel fatto di giustizia. Però secondo me qui le istituzioni in realtà ne escono con le ossa rotte e il fatto di avere così tante persone, faccio la domanda appunto a un avvocato che peraltro si occupa di legalità e giustizia e di ruolo della legalità e della giustizia nella cittadinanza, così tante persone delle istituzioni che hanno precedenti penali, inchieste penali in corso, che vengono sentiti farsi beffe della legalità, che fanno leggi e le aggirano il giorno dopo, però obbligando noi a rispettare quelle leggi che loro non rispettano. Ecco, secondo me questo è il messaggio principe migliore per dire, vabbè, tutto sommato se viene anche il boss della 'ndrangheta che ti offre un milione di euro, ma pensa ai fatti tuoi e mettiti con loro. Cioè, c'è in questo paese, ho questa sensazione, un bassissimo livello di legalità e di interesse, di voglia, di desiderio di seguire la legalità, perché è sicuramente più difficile che, come dire, quando sono magari con a capo di una istituzione di film meccanica, prendere e distribuire mazzette a destra e manca con i soldi che tanto non sono miei, ma sono di tutti i cittadini. Sì, diciamo che questo qui, a mio giudizio, è il tema centrale, perché noi quando parliamo delle infiltrazioni mafiose al nord, in realtà parliamo soprattutto della perdita di un valore fondamentale. Noi viviamo in una realtà, la realtà lombarda, la realtà brianzola, che sono sempre state vissute come realtà operose, dove il lavoro ha un primato che non è mai stato messo in discussione da nessuno. E quindi pensare che ci si debba confrontare con un fenomeno, chiamiamolo pure reietto, perché in realtà si tratta davvero di un abbruttimento sotto il profilo morale, sotto il profilo esistenziale, perché evidentemente chi ricorre al crimine e lo fa come sua esclusiva ragione di vita, ad un certo punto non può più essere considerato un soggetto capace di vivere in una consorteria che ha anche degli scopi etici, no? Come deve essere la nostra società. Lo Stato è etico per definizione, non può non essere etico. E quindi il tema fondamentale, secondo me, è proprio questa discrasia, questa dicotomia che si crea tra, da una parte, diciamo, le ragioni della legalità, che militano per la legalità e che vanno d'accordo con le caratteristiche che conosciamo delle nostre regioni, quindi l'idea del lavoro, l'idea del risparmio, l'idea consolidata della famiglia, ed invece questi fenomeni che ovviamente sono la negazione di questi valori in cui tutti noi abbiamo sempre creduto e pensavamo di essere immuni. Ecco, il fatto che ci sia una criminalità organizzata e che sia una realtà su cui ormai nessuno può discutere, evidentemente ci pone di fronte ad una situazione in cui dobbiamo prendere atto che c'è qualcosa che non funziona più nella nostra società. Ed era quello che diceva Paolo, ed è quello che diceva anche Massimo, cioè in sostanza il concetto di legalità è scaduto. Noi non siamo più in grado di riconoscere forse quella linea che a volte diventa davvero molto sottile tra ciò che costituisce legalità e ciò che invece non lo è più. Ci sono tanti comportamenti in realtà che sono in una linea grigia. Vedete, nella mia esperienza professionale a me è capitato spesso, no, di discutere con alcuni imprenditori, con persone su cui io non ho nulla da dire, che però mettevano in dubbio ad un certo punto certi tipi di comportamento. Ad esempio il fatto di dover superare una graduatoria, oppure di dover ricorrere a certi escamotage che in sé per la verità potevano anche essere considerati leciti se li prendiamo sotto un profilo formale, però messi insieme con un certo sistema in realtà rappresentano dei mezzi elusivi della legalità. E questi comportamenti in realtà sono dei comportamenti che, se portati avanti, finiscono per divenire un'escalation. E secondo me, ecco, il punto che davvero è difficile capire è come, cioè, l'andrangheta si sia potuta inserire in un contesto come quello che ho descritto e lo abbia potuto fare pur avendo come riferimento, come diceva Paolo o come diceva Massimo, quei riti, no, che effettivamente fanno sorridere, no? Perché c'è il santino, c'è il rito in cui bisogna accenderlo e bisogna poi stringere un giuramento di sangue, ecco, tutte evidenti immagini che per un brianzolo, per un lombardo non possono suscitare alcun interesse. Allora ci si chiede, in realtà non può essere un comportamento di imitazione quello che spinge ad esempio Ivano Perego a cercare l'aiuto dell'andrangheta? Non è certo il calabrotto il soggetto che per lui rappresenta, diciamo, un punto d'arrivo? Allora qual è il concetto? Per quale motivo Ivano Perego cerca l'aiuto dell'andrangheta e della mafia? E lo cerca semplicemente perché il suo obiettivo è ovviamente avere una vita assolutamente edonistica, avere tutti i beni. Si narra che appunto Ivano Perego arrivava sui cantieri con la Ferrari. La Ferrari, poi si è saputo, non era di proprietà, era noleggiata, però era importante soprattutto far vedere lo status symbol raggiunto, no? E quindi far capire che in realtà si poteva, attraverso il potere, a questo punto però, del danaro, avere anche un dominio che poi dopo in realtà si sviluppava anche nelle relazioni sociali e soprattutto anche attraverso il sostegno di una parte della politica. Come vedete, quindi ci sono tutta una serie di contenitori che vengono superati attraverso questa trasversalità. Che cosa cercava Ivano Perego? Ivano Perego dell'andrangheta cercava soprattutto danaro, perché ovviamente la criminalità organizzata ha un punto forte, evidente e chiaro per tutti, è una riserva di finanziamento. Noi sappiamo quali sono le difficoltà del sistema bancario, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà degli imprenditori onesti ad ottenere un fido, ad ottenere il credito, ma invece ovviamente le organizzazioni criminali dispongono di riserve immense attraverso le attività illecite, attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti, i vari racket. Ovviamente sono in grado di disporre di una liquidità incredibile che nessun sistema bancario è in grado di fornire, e soprattutto non è in grado di fornire, diciamo così, rapidamente, senza alcuna pratica burocratica. Voi capite cosa significa per un imprenditore che si trova in una situazione in cui per tutta la vita ad un certo punto ha messo al primo posto soprattutto l'ostentazione della ricchezza e quindi ha perso un po', diciamo, quelli che sono gli scopi dell'impresa. Io mi riferisco ovviamente anche all'impresa etica, all'impresa che non solo produce guadagno ma che dà lavoro. Ebbene, ha perso i punti di riferimento diventano altri, e in questo contesto ovviamente la criminalità organizzata gioca un ruolo fondamentale. Quindi non è per i santini che l'andrangheta o la mafia si inseriscono nel nostro contesto, ma è attraverso il potere del denaro, attraverso un potere fortissimo che è di grandissimo richiamo. E infatti le Perego Strade, che tra l'altro io conosco da molti anni, anche perché in realtà mi era capitato di imbattermi in alcune vicende in cui la vedevano opposta, ad esempio, l'amministrazione provinciale, ma per delle questioni tutto sommato che riguardavano delle sanzioni amministrative. Non stiamo parlando dei gravi delitti di cui invece è accusato Ivano Perego e di cui si deve difendere nei processi che dovrà affrontare. E lì io ricordo che si trattava di imprenditori giovani, di ragazzi che, come qualsiasi altro imprenditore, avviava un'attività e si trovava di fronte alle difficoltà quotidiane dell'avviarla, quindi anche le difficoltà magari di una pratica gestita male sotto un certo punto di vista, ma non certamente una pratica in cui si ricorreva al riciclaggio di denaro, oppure si ricorreva all'aiuto e al sostegno di soggetti noti, risaputi, conosciuti nell'ambito della criminalità organizzata. E allora evidentemente l'impresa che nasceva come impresa sana, e poi a un certo punto, considerati i comportamenti e le modalità comportamentali di questi soggetti, soprattutto per i valori di riferimento che non sono dei valori ma sono degli pseudovalori, ecco che nasce l'esigenza a questo punto di arginare quello che è diventato un buco incontrollabile. Ecco quindi che entrano dei soggetti stranissimi come questo straniero, che certamente tutto è, ma non un amministratore delegato, e quindi quando prende delle decisioni prende anche delle decisioni rovinose, tanto è vero che poi viene addirittura sostituito. Però vedete, il punto centrale resta proprio quello della legalità, della perdita di riferimento di alcuni valori fondamentali che noi abbiamo sempre ritenuto fossero connaturati alla nostra società e al nostro contesto territoriale, che invece mano a mano sono andati perduti. Cioè non è un caso che Ivano Perego sia ricorso all'ausilio dell''ndrangheta, perché l''ndrangheta in questo momento diventa un importante punto di riferimento sotto il profilo finanziario. Noi dobbiamo fare i conti con questi fenomeni. Cioè, noi abbiamo raccontato dell'affiliazione e di fenomeni che sono tutti interni, quindi dell'idea che si ha del boss dell''ndrangheta come punto di riferimento, ma per chi vive in un contesto mafioso, in un contesto di criminalità organizzata. Ma invece quello che dobbiamo capire qui al nord, io penso Massimo, è soprattutto qual è il motore di questa infiltrazione, no? Cioè quando noi parliamo di criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata è diventata così forte e così potente al nord? Perché purtroppo si è insinuata nei gangli della nostra economia. Questo è il discorso su cui alla fine bisogna arrivare. E sui gangli dell'economia ovviamente in Lombardia ha trovato un terreno molto fertile. Assolutamente. Grazie Enzo anche per la tua esperienza professionale che ci hai portato. Vi ricordo che questa serata i protagonisti siete anche voi, nel senso a noi fa piacere se ci sono persone che hanno domande, che vogliono intervenire, che vogliono fare interventi. Sappiate che potete farlo in qualunque momento. Assolutamente. Sì, prego. Rappresento un cittadino qualunque. Io non sono un avvocato, non sono un professore, non sono niente, non sono un politico, non sono niente di quelli altolocati che ci vengono a dire di che cosa è formata la mafia o la vita organizzata. Tanto per cominciare, io sono un calabrese. E non perché sono un calabrese mi sento tirato in causa, perché sono un calabrese onesto. Vivo in Lombardia da 40 anni, cercando di comportarmi alla luce del sole e nelle regole che buon anno di mio padre mi ha insegnato a vivere. La 'ndrangheta, come tutte le mafie e come tutte le malavite organizzate, non sono altro che delle piante, non sono altro che delle metastasi, delle malattie, che se fossero curate in tempo potrebbero trovare la guarigione. Come si strutturano le mafie? Come si è strutturata la mafia al nord? Bene, possiamo dire che è un fenomeno che cresce. Ma l'humus per far crescere questa pianta, la mala pianta del dottore Gratteri, Chi lo ha preparato? Chi sono i fautori dell'orticello dove cresce la malapianta? È lì il punto che dovrebbe crescere. Perché non è sufficiente dire che la malavita organizzata si infila nelle nostre economie, non ci rende liberi, oltretutto, e tutte quelle cose. Ma necessita la ricetta per far sì che questa mala pianta non debba più crescere. Per poter far questo bisogna creare terra bruciata, che come si fa? Si fa in un modo semplice, semplicissimo. Nel momento in cui noi ci portiamo nelle urne ad esprimere il voto per questo, quello, quell'altro, quell'altro, quell'altro, noi dobbiamo sapere che le uniche persone che consentono che questo fenomeno cresca stanno nella politica. Perché la politica è l'humus per far crescere questa pianta. Nessun calabrese verrebbe qua a fare il mafioso se non fosse appoggiato da chi alza alla tasca dei bottoni. Perché la mafia di un tempo, la mafia del rapimento di persone, quella mafia non esiste più. L'hanno capita anche loro. La mafia attuale è una mafia colta, di persone intelligentissime. In quella mafia ci sono avvocati, medici, professori, e quanto più ne ha più ne meno. Perché i figli di quei vecchi mafiosi si sono progrediti, non hanno più bisogno di andare a sequestrare la persona per portarla in Aspromonte. È un qualcosa di troppo rischioso. La cosa è così semplice. Basta avvicinare il politico di turno per entrare nella stanza di bottoni. Quali sono le stanze di bottoni? Dove si amministra il denaro pubblico? Ospedale, imprese, tutta l'economia. E questi signori, ogni qualvolta riescono a piantare un chiodo nei vari comparti del comando, hanno fatto il loro peso. Che senso hanno più andare da Tizio Caio senza ogni puntare la risolvere in destra? Quello ormai sono cose arcaiche, dobbiamo passare, sono già lontane. Bene. La nostra città di Napoli. L'uomo civile, il comune cittadino, vive questo fenomeno perché è condiviso da chi si amministra. E questo lo possiamo vedere nella politica civico-amministrativa, lo vediamo nella politica provinciale, regionale, lo vediamo anche nella in quelle che l'amministrazione lo sta. Non pensiamo nemmeno lontanamente di pensare che tutta questa politica urlata, balbettata, gesticolata, abbia nell'interesse sconfiggere le mafie. No. Le mafie per loro sono dei portatori di voti, sono dei serbatoi di voti, va bene, che loro hanno costruito ad hoc. Quindi non hanno nessuna intenzione di andare alla mafia. E i nostri pubblici ministeri, i nostri giudici, con gli strumenti che hanno in mano, non la combatteranno mai, ve lo dico io da calabrese. Perché prendere queste gente e buttarle nelle carcere è come una goccia d'acqua in mezzo al mare. È una goccia d'acqua in mezzo al mare. Se voi pensate a dei numeri, gli affiliati della 'Ndrangheta sono 55.000. Gli affiliati di Camorra sono 80-90.000 più o meno. E quelli della mafia lo sono 100.000. Poniamo per assurdo che noi riuscissimo ad avere la capacità delle carceri per poterli mettere dentro. Quanto costerebbero allo Stato italiano mantenere questa gente? Non ce la potremmo mai fare, anche perché ciò non è possibile. Questo lo diceva Giovanni Falcone, lo dico. Incarcerare la gente non è quello che è il modo più giusto. Bisogna fare terra bruciata di quelle che sono gli appoggi politici che reggono le redini delle capitali e delle varie mafie. E finché il cittadino qualunque non si ficca nel cervello che non l'unica arma che ha a disposizione per garantire i suoi diritti e il voto e che lo debba usare senza essere nel modo più assoluto carpito, deve essere un voto netto, convinto, libero. E quando parlo di libertà parlo di un concetto così grande, così grande, che io non lo so quanta gente o quanti dei nostri giovani lo vanno a programmare, cosa significa libertà. Concetto di libertà. Il concetto di libertà. Il concetto di libertà, signori miei, non è tanto quello di scorrazzare di qua e di là, se sono lì. Uno è libero solo nel momento in cui può scegliere a suo piacimento il signore che può andare là ad amministrare. Un soggetto è libero solo e solamente quando può assolvere tutti i suoi doveri nei confronti della sua famiglia. Il discorso della politica, grazie per il suo intervento, è fondamentale e mi ha dato lo spunto per ulteriori riflessioni. Le chiedo di chiudere il suo intervento così poi possiamo dare eventualmente possibilità per altri interventi. Quindi perché noi non cerchiamo di aprirci e far capire, poi ripeto stasera che saremo quelle 30, 40, 50 persone, ma se quelle 30, 40, 50 persone non si applicano, non si adoperano a far suonare nelle orecchie dei giovani a chi non c'è domani, nel bar, in qualunque altro luogo, quelli che sono i concetti che stiamo affrontando, noi da questa palude non ne usciremo mai. Se noi aspettiamo che i nostri signori della politica, che essi siano i Bossi, che siano i Casini, che siano i Bottiglioni, che siano i Casini, questi, l'unico loro scopo è quello di stare attaccati con la cozza allo scoglio. Non hanno alcun interesse loro. Sono 40 anni, la prima repubblica desidera la prima repubblica. La seconda repubblica è peggio della seconda repubblica. La prima repubblica fa dopo, la seconda repubblica è un altro candidato. E ancora peggio. Grazie. Io vi ringrazio per essere portato. Grazie, se posso, il suo intervento mi ha fatto due riflessioni. Di questo sono disponibile in ogni momento a condurre questa battaglia, sempre con il pieno interesse della lealtà. Le due riflessioni sono: la prima è che in tutti gli incontri che abbiamo fatto abbiamo interloquito ed è intervenuta una persona che giustamente reclamava l'orgoglio dell'essere calabrese. E questo qui è un dato molto interessante, perché il collega Francesco Filippo, che per me ha scritto il libro, si è proprio interrogato, no, su questo aspetto, ha detto: ma cosa ha dato la Calabria all'Italia? E devo dire che la Calabria all'Italia, banalmente, ha dato forse i più grandi, proprio una lotta della criminalità organizzata, i più grandi giudici, i più grandi magistrati che in questo momento stanno lottando contro la criminalità organizzata. E non è poco, soprattutto se si considera di che realtà stiamo parlando. La seconda riflessione invece sulla politica è la storia che ogni tanto racconto di Mimmo il Verduraio, che è questo personaggio considerato il capo della locale di Genova dell'Andrangheta, che ha questo negozio di frutta e verdura in zona San Fruttuoso e il suo negozio diventa quasi regolarmente qua sotto elezioni un via vai di personaggi politici. Io andando a leggere le cronache, soprattutto del secolo XIX, che molto puntualmente ha riportato queste storie, ho contato un deputato, due consiglieri regionali, un sindaco, un ex vice sindaco, un consigliere comunale, un paio di candidati alla regione Liguria, che sono andati a parlare con Mimmo il Verduraio. E ho detto: questo Mimmo il Verduraio deve essere meglio del capo della Casa B dello Stato della Casa Bianca, perché se tutti questi candidati vanno a parlare con lui, evidentemente deve dare dei consigli che sono meravigliosi. Ovviamente è una battuta, perché si capisce che più che dare consigli, Mimmo il Verduraio evidentemente dava garanzie su quei voti non liberi di cui parlava Simone. Da consigli che non si possono rifiutare, insomma. Sì, due riferimenti. Uno era quello storico del corpo, ecco. E io mi ricordo che nel 76 avevo notato sui giornali che questo signore era riuscito a incendiare le auto di un concessionario. Il concessionario l'aveva visto, denunciato, però lui ha continuato. Qualche anno dopo hanno sostituito il presidente del tribunale di Lecco, e il giorno dopo Cocco è andato in carcere e non è più uscito, non è andato neanche al funerale del figlio. Per cui domandavo: ma poter fare, oltre al discorso politico, probabilmente ci sono anche altri livelli di copertura per poter svolgere delle attività che, insomma, ne stiamo discutendo, tutti sappiamo perché in qualche maniera non si riesce a fare qualche cosa. L'altro riferimento era di estendere il concetto dello sviluppo della mafia. Io opero su Milano, ci sono tanti cinesi, intorno al discorso dei cinesi c'è il discorso anche lì sicuramente di una mafia latente, che fino a quando litiga, si ammazza, regola i conti all'interno della sua struttura, dei suoi accoliti, le autorità non intervengono. Però dell'altro giorno parlavo con un finanziere che è venuto a fare una verifica fiscale dove opero io, e mi ha detto: sì, noi potremmo andare nei negozietti, però cosa faccio? Impiego quattro persone, cioè quattro finanziere, andare in ogni negozietto dove sono sicuro di trovare della roba, ma non ci vado, preferisco venire da voi e rompere le scarpe. Grazie, grazie per il suo intervento. Se è avvocato la torna a casa, non so se sì. Ma certo, non è pensabile che solo con il voto si possa risolvere un problema così grave come il criminale. No, io credo che non sia così, purtroppo. Cioè, certamente il voto ha la sua importanza, però noi dobbiamo pensare che la criminalità organizzata è un fenomeno trasversale, noi lo ritroviamo in tutti i partiti. Non ci sono dei partiti che possiamo considerare indegni o esenti. Avvocato, mi consente una parola. Il più grande partito di maggioranza che abbiamo in Italia non è né il PT né il PDL. Il più grande partito di maggioranza in Italia si chiama astensionismo. È certo, un voto. 30% di gente che si astiene, 15% degli indecisi, 3% che votano scelta bianca. Queste sono tutte persone che prima di accostarsi all'urna vanno con la maschera antigas pur di non sentire la pozza dove stanno dirigendosi. Noi dobbiamo far leva nelle coscienze di quelle persone. Però vede, Il punto fondamentale è che noi dobbiamo anche considerare che ci sono quelle persone che si candidano e che chiedono di poter essere votate. In realtà noi dobbiamo pensare che se vogliamo rinnovare la classe politica, no, dobbiamo fare in modo che sempre più cittadini si avvicinino alla politica, che non siano sempre gli stessi, che non ci siano i professionisti della politica, ma ci siano i cittadini che si avvicinano. Capisce? La politica deve essere partecipazione, la libertà è partecipazione, no? Come diceva la famosa canzone stracitata di Giorgio Gaber. Quindi non è solo una questione di voto, è una questione anche di comportamenti, è una questione di valori che ci stanno sfuggendo, è una questione di una società che deve ritrovare al suo interno quelle risorse per affrontare una battaglia immane. Perché altrimenti il problema fondamentale è che ci troviamo di fronte ad una società senza valori, e nella società senza valori cresce solo ed esclusivamente il disvalore. Quindi il concetto del voto è un concetto che ha la sua importanza, certamente, perché io non è che non sono in grado di valutare quali siano i personaggi che certamente non devono essere votati. Però non è il discorso fondamentale, non è col voto che noi riusciamo a vincere la battaglia contro la criminalità organizzata. La criminalità organizzata è anche e soprattutto una battaglia di valori, dove al disvalore si oppone il valore, dove i cittadini hanno il coraggio di denunciare la situazione. Io vi assicuro che nel corso della mia attività professionale ci sono state svariate occasioni in cui alcuni imprenditori mi hanno confidato di subire delle pressioni da parte di soggetti che a loro giudizio erano dei soggetti criminali. Quando io gli ho detto: ma allora a questo punto, se vi trovate in questa condizione, voi dovete fare in modo di denunciare questa situazione, loro mi hanno detto: ma io ho paura, io ho famiglia, io non me la sento, capite? Quindi anche il fatto che ci siano delle situazioni consolidate di criminalità e dove ci sono queste intimidazioni, scusate, che colgono nel segno, e beh, diventa sempre più difficile poi dopo fare in modo che contro la criminalità organizzata la società si organizzi, perché siamo noi i primi che devono capire che la criminalità cresce laddove non si interviene, laddove c'è il silenzio, laddove addirittura c'è l'omertà, capite? Questi sono i fenomeni su cui cresce la criminalità organizzata. Ma se il cittadino sano... Vorrei dare un Posso rispondere un secondo? Posso rispondere un secondo al signore sull'aspetto, poi così almeno poi andiamo avanti con sull'aspetto del presidente del tribunale cambiato. C'è stato recentemente, si è presentato in Liguria, il presidente del tribunale di Imperia, che è stato addirittura arrestato, messo agli arresti domiciliari. Mi leggo, no, promosso. No, per dire l'importanza, l'importanza del, cioè, alla fine, noi possiamo discutere di tutti i sistemi possibili e immaginabili, riforme legislative, il nuovo codice, però alla fine le norme, le leggi, la politica che fanno le persone. E quindi l'importanza di avere persone che si comportano in un determinato modo. Abbiamo puntato molto sul discorso sulla legalità, che dovrebbe essere il faro che conduce tutti quanti, no? Quello è il faro, appunto. Non è che c'è una legalità che sì, però la legalità che la faccio fino a un certo punto, no, è quello, appunto. Non è che non si scatta di lì, eppure tutti quanti riescono a trovare, tutti quanti non è vero, però molti riescono a trovare una scorciatoia, una via. Gli italiani sono famosi, no? Per essere un po' i furbetti che trovano le scamontage. Questa roba qui deve cambiare. Deve cambiare questa roba qui, perché noi non siamo i furbetti. Noi siamo il popolo e il paese di persone geniali che riescono, che però seguono dei principi che sono principi sani. Questa è la cosa che deve cambiare. Penso sia più importante questo. Dobbiamo cambiare tutti le mentalità. Dobbiamo cambiare. E cultura. È un fatto culturale e mentale. È un fatto di regole. Di regole, esatto. Vanno rispettate. Esatto, ma il problema è che anche il fatto della raccomandazione, no? Sì. È un fenomeno diffusissimo. E terrificante. Ma la raccomandazione è ovviamente una faccenda che non riguarda la legalità. Cioè, ma perché la legalità perché? È un'altra cosa. La legalità prevede che i concorsi i concorsi debbano essere fatti per garantire ai più meritevoli di accedere agli impieghi comunali, provinciali, statali, capite? E invece chi accede attraverso la raccomandazione ovviamente commette un atto antigiuridico, un atto che è ovviamente contrario alla legalità. E addirittura dannoso. Perché ma certo che è dannoso, non è il suo competenza. Ma scusate, se poi dopo non è il più meritevole, ma è raccomandato, chi ci garantisce che questa persona sia davvero in grado di svolgere le funzioni a cui è chiamato? Questo è il punto. Certo, poi allora c'era il signore, c'era sì, prima il signore. No, lei è andato. Sì, prego. Il punto l'ho sentito e credo che sia importante, sì. Soprattutto questi dati che vengono dati, che abbiamo gli studenti primari. È l'evasione, la grande evasione, no? Di cui la mafia purtroppo è, su questa grande evasione trova questi fiumi di denaro, è la grande corruzione della mafia. Qui abbiamo scontato circa 70-80 miliardi di euro sulla corruzione. Questi due dati, no? Sono per le attività criminali, no? In Italia sono enormi, perché i dati che ci danno, no? Che l'Italia, no? Sia sull'evasione che su corruzione, su questi due siamo il principale in testa. Okay. Sempre rientra nel discorso della legalità, cioè di quella cosa si sta parlando in tutti i settori, anche nell'evasione fiscale, voglio dire, la pressione fiscale è chi ama pagare le tasse? Nessuno, perché voglio dire, dai via dei soldi che tu dici potrei farci altro. Ma il fatto di non pagare poi cosa succede? Provoca il fallimento dello Stato? Ecco, attraverso la corruzione, attraverso cercare di intervenire su questi due dati, no? Si colpisce ovviamente anche la ma anche qui c'è un fatto culturale, perché quando io scrivo sul giornale che del marocchino che viene condannato perché ha rubato una bicicletta tutti si indignano, quando scrivo sul giornale che uno ha evaso 1,5 milioni al fisco mi chiamano 3 avvocati per minacciarmi di querela, e questo è il problema, questo è il problema, per cui se io scrivo dell'evasione fiscale io rischio di essere quererato perché loro non so di farmi quererare e alla fine riescono a patteggiare la pena e a restituire un quarto, un quinto, un terzo di quello che hanno rubato a tutti noi. Altra cosa dovrebbe c'era il signore che ha alzato la mano prima e poi sì, e poi lei. Sì, il signore lì si chiama Ettore comunque. Sì, piacere. Mi ha colpito l'affermazione che ha fatto Paolo rispetto al fascino dei giovani che hanno nei confronti della camorra, mafia piuttosto, dell'andrangheta, quello che è, insomma. Io che bazzico nel mondo del lavoro e quindi conosco molto bene alcuni meccanismi, diciamo che per un giovane è molto più facile crearsi uno spazio di idealità piuttosto di qualcosa che può trovare delle soddisfazioni anche di carattere economico, è più facile trovarli in quegli ambiti lì che andare a lavorare per 8 ore e portarsi a casa uno stipendio di 800 euro. Quindi non mi meraviglia questa affermazione qua rispetto a quello che tu dici. È chiaro che l'humus sta nel capitale, diciamo, in quello che gira intorno all'economia, intorno alle condizioni che molti lavoratori vivono. È chiaro che se in un paese più equo, quindi faccio riferimento all'evasione fiscale, faccio riferimento alle norme di legge che hai appena accennato te rispetto a se uno fa appena una denuncia, viene coinvolto in un certo modo, oppure viene denunciato piuttosto che altro, allora è certo che queste cose qui lasciano un po' sbandati e poi il fascino dei giovani vengono attratti da queste cose qui, che sicuramente è più facile andare a guadagnare vendendo la propria attività trovare delle soddisfazioni economiche, perché poi oggi è questo il valore principale, è questo, non sono il valore principale, non è la resistenza, il vivere insieme, non è stare, fare delle cose insieme alla società, ma oggi è il soldo. E quindi mi viene facile dire che in un mondo di regole noi vivremo tutti quanti meglio, accantonando, appunto, mettendo da parte quelli che sono gli sviluppi dell'andrangheta, della camorra, piuttosto che della mafia stessa. È chiaro che la partecipazione nostra nel mondo politico fa la differenza, perché oggi noi abbiamo delegato tutto ai politici. La politica è una cosa seria, non è una cosa che si delega, è una cosa che si partecipa, la democrazia è questa. Nel momento in cui deleghiamo Tizio Caio Sempronio a risolvere o ad affrontare i problemi che ci riguarda direttamente nel nostro paese piuttosto che nel nostro territorio, noi già abbiamo sbagliato tutto. Nel momento in cui noi partecipiamo alle attività, io credo che un colpo alla mafia, alla camorra, quant'altro, glielo diamo sicuramente. Mi fermo qui. Io mi volevo riferire al discorso che ha fatto prima. Inizialmente si parlava dell'arresto del mafioso a Milano del 74, è avvenuto, se non sbaglio, al quartiere di Gentino, a opera via Ripamonti, a opera, mi sembra, di due finanzieri, sì, i quali sono stati trasferiti perché forse sono andati oltre quello che dovevano fare, forse non sono avvisati a farlo scappare. Un altro collegamento che ho fatto è tutto mio, che da tempo si cercava Totò Riina. Sarà un caso, ma quando Andreotti è uscito dalla politica, Riina è stato arrestato. Andreina è un simpatico. Altro caso, io ricordo quel politico qualche anno fa che ha affermato che con la mafia si deve convivere. Lo ricordate? Con tutte queste cose, io, c'è una classe politica che andrebbe azzerata completamente, perché non vedo un'uscita. Quello che vedo è che quando c'è qualche trafficante così, che legato alla politica, che combina i suoi pasticci, viene eletto in Parlamento e diventa intoccabile, come sono intoccabili tutti. Poi sono i giudici che vanno. Si parla di contrastare la mafia. Quel condono che è stato fatto facendo rientrare i capitali in Italia, tassandoli del 5%, non è stato un favore fatto alla mafia. L'insistenza per fare il ponte sullo stretto di Messina non è un favore che si fa per far entrare le imprese mafiose. Con tutte queste cose, la cocaina, la droga arriva a tonnellate, non c'è la volontà di combatterla, si finge, ogni tanto si fa vedere che i carabinieri piuttosto la polizia riescono a sequestrare qualche chilo di droga, ma non c'è nessuna volontà di farlo. Quindi valgono i discorsi che sono stati fatti, ciascuno di noi dovrebbe farsi l'esame di coscienza, incominciare per primo a fare il proprio dovere, di cominciare ad educare e a partecipare alla vita politica e non considerare la politica una cosa sporca. Sono sporchi quelli che la utilizzano male. La politica è uno strumento, va usata così. E volevo fare una domanda all'avvocato, scusate, solo una domanda, perché lei è avvocato. Come è possibile che un avvocato in coscienza riesca a difendere un politico corrotto piuttosto che un mafioso? No, mi riferisco a lei perché lei è avvocato. Facciamo rispondere subito. La domanda è questa. Ma guardi, questa è una questione che capita spesso, no? Che viene sottoposta sempre agli avvocati. Ma il problema fondamentale è che la difesa è uno dei diritti fondamentali della Costituzione. Capisce? Perché non c'è nessuno che sin dall'inizio è considerato colpevole. Bisogna attendere i gradi del giudizio, e in questi gradi del giudizio uno deve sempre avere la garanzia della difesa, perché altrimenti il processo ovviamente è viziato all'origine. Cioè, se uno è condannato ancor prima che il processo si svolga, evidentemente è un processo che conduce ad un'unica verità, la verità dell'accusa, capisce? Quindi l'avvocato in coscienza fa bene il suo mestiere quando nelle situazioni in cui è coinvolto ovviamente non inventa la verità, ma dai fatti che gli vengono posti dal suo assistito è in grado di realizzare una difesa che sia sostenibile e che ovviamente non sia una pura invenzione, perché nessun avvocato è obbligato a mentire, anzi al contrario, il nostro codice deontologico ci obbliga a dire la verità, non a dire la menzogna, capite? Poi dopo, ovviamente in ogni professione, in ogni situazione, sappiamo che c'è chi rispetta le regole e c'è chi non le rispetta, però in coscienza l'esercizio della difesa è un esercizio indefettibile, altrimenti non siamo più nello stato di diritto, siamo nello stato di polizia, dove le persone vengono fermate, vengono tenute in prigione e non si sa per quale ragione. Quindi, cioè, questo è un discorso che io capisco benissimo, perché uno dice, ma voi avvocati sapete benissimo chi ha commesso il reato, quindi come fate a difenderlo? Non è così, perché un buon avvocato innanzitutto non chiede mai se è colpevole o innocente, ma un buon avvocato dice quali sono i fatti, e un buon avvocato dai fatti capisce benissimo qual è la direzione che potrebbe prendere il processo, e allora dice al suo cliente: con questi elementi la situazione a cui siamo diretti è una situazione che ti condanna, quindi la difesa non deve essere impostata verso la soluzione, ma attraverso evidentemente altre circostanze che devono porre in luce altri comportamenti, capito? Però è un discorso per la verità molto complesso. Io spero che è vero che nel caso di imputati che dispongono di risorse economiche, gli avvocati riescono a tirare in lungo per arrivare alla prescrizione, questo non è molto corretto. Poi dopo il governo diminuisce i tempi di prescrizione, quindi il problema probabilmente non è tanto l'avvocato, ma quando ti cambiano le carte in tavola mentre stai giocando. Ma il sistema legislativo... Basta a cambiare due o tre volte il giudice, perché una volta incinta, una volta... Allora, mi avete dato diversi spunti. Innanzitutto vorrei ringraziarvi di essere qui e Fernando che ha organizzato l'iniziativa, perché è raro fino ad ora, come avete detto, il problema della mafia, dell'andrangheta, camorra esiste da come minimo 30 anni per partire. Però poche volte abbiamo avuto iniziative di questo genere. Io qualche volta ne vedo a Seregno, fra l'altro c'è anche una persona in Seregno che lavora per la televisione svizzera che ha realizzato dei servizi molto interessanti sul collegamento, collusione fra la finanza, non solo quella italiana di Piazza Affari, ma anche quella svizzera. E quindi un grazie, dei tirsi altri. Un grazie per aver organizzato questa iniziativa. A Paolo, perché assieme al suo collega ha scritto questo libro, a te Massimo, pensavo, io un giovane esperto di, invece, da quello che ha avuto modo di dire. Diciamo che Massimo bene anche. E anche all'avvocato Torracchio, cioè è importante essere cittadini attivi, perché poi nella vita di ogni giorno vediamo un sacco di cose che non vanno, su cui possiamo intervenire nel nostro piccolo, umilmente e anche efficacemente. A me e anche altre persone che conosco è capitato di farlo, a volte non è facile smuovere, non so, amministratori eccetera eccetera, però poi a volte qualcosa si ottiene, anche ricorrendo ai giornali, insomma. Seconda cosa, mi stupisce che non ci sono amministratori, non vedo consiglieri, cioè questo è indice, ma non per dare ragione al signore di cui sono in parte d'accordo, cioè la politica è una grande responsabilità, però non neanche si può dire allora non mettiamoli dentro, che i giudici non facciano la loro parte, e mettere dentro chi merita di essere messo dentro, perché sennò veramente il tumore si allarga, le metastasi si allargherebbero sempre di più. E un grazie ai tanti calabresi, non solo a quelli che fanno parte della 'ndrangheta, ma ai tanti coraggiosi che sono morti sotto e che purtroppo sono stati, hanno dovuto subire la violenza della 'ndrangheta o in altre regioni come la Sicilia o la Puglia o la Campania, e adesso da parecchi anni anche qui in Lombardia la violenza della 'ndrangheta. Una cosa che diciamo stasera mi sono dovuto un po' ricredere, perché avevo sentito quando c'è stata l'operazione Infinito che avevano arrestato gente collegata e fermato anche Massimo Del Pellico, che la madre mi ha colpito un'intervista, dice la situazione si è aggravata perché la regione, lui lavorava per parecchi enti pubblici, regione, l'ospedale di Como ha avuto un ruolo significativo e penso che parecchio dell'amianto, della ticosa sia finito anche sotto l'ospedale. Sapete che all'inizio avrà cominciato l'inchiesta e poi l'ho smesso perché mica si può abbattere l'ospedale. Però la madre diceva questo, cioè si è andato in crisi perché le varie istituzioni non pagavano, quindi si è avvicinata alla normalità, all'inizio amici, baci, abbracci, sembravano degli amiconi che lo facevano veramente per aiutare mio figlio, e invece poi a un certo momento, quando hanno visto che il capitale piuttosto era il loro, hanno chiesto le chiavi, quindi sono diventati padroni. E probabilmente anche questa, io penso che anche la politica che c'è stata, il patto di stabilità che ha messo in crisi tanti comuni e che attualmente non possono spendere, i tagli lineari, molte volte lasciando poi spazio a tutte le varie regioni Lombardia, ad esempio, sono rimasti nel bilancio tantissimi soldi per parcelle, per consulenze e cose del genere. Cioè, quindi poi tagliano dove vogliono loro e non dove dovrebbero, insomma. Cioè tutto questo, insomma, ci fa capire come anche le scelte economiche, politiche, finanziarie possono incidere in quello che è lo sviluppo e la diffusione della malavita sul territorio. Perché voi l'avete detto, insomma, la grande liquidità che ha tutte le varie mafie, a cominciare dalla 'ndrangheta, insomma, che permettono di poter intervenire laddove lo Stato non riesce a intervenire, oppure le banche non danno più. A me ha colpito un'intervista dei giorni scorsi sul Cittadino di un signore che elogiava Rocco Cristello, Rocco Cristello che è stato ucciso pochi anni fa a Verano Brianza, il quale diceva che quella era una brava persona, perché al bar pagava, perché chi faceva un lavoro per lui lo pagava su lunghi, invece qui si paga 60-90 giorni. Sento imprenditori che aspettano soldi ancora da 60-90 giorni quando va bene dal 2008, insomma. E quindi entra anche questo fatto proprio di pratico, insomma, che in questa situazione di crisi molti ricorrono anche imprenditori onesti, che poi purtroppo, e questo mi ha colpito quello che ha detto Ilda Boccassini, dice, non c'è stato, tu lo richiamavi, dice, zero imprenditori hanno collaborato con la magistratura, insomma. Questo è molto triste. E i valori, cioè, sappiamo che fortunatamente la società va avanti perché ci sono tante persone corrette, onesti, che rispettano le regole, insomma. Oggi diventa sempre più difficile rispettarle, però proprio perché io penso che la grande capacità anche di violenza che hanno le varie mani di incidere sulle persone, insomma, e poi perché sì, forse persone coraggiose ci vengono molto di più, insomma. E poi, l'ultima cosa, ho apprezzato molto un amico che andava in un bar a Cabiate e che una domenica gli è capitato di vedere entrare uno dei Cristello che è stato poi arrestato, insomma. E come è entrato questo, sia i proprietari del bar, sia molte persone che erano in bar, mancava poco che si inginocchiassero, insomma, perché questo poi offriva a tutti, a chi va per il filo, a chi va per il cibo, a chi fa. Dice, da quel giorno io non sono più andato in quella, tanto che io veramente mi ho stretto, sentito il bisogno di stringergli la mano e fargli i complimenti, perché anche da questi piccoli gesti uno può fare la sua piccola parte per conservare un mondo di legalità. Grazie. Volevo fare una domanda a Paolo Moretti, visto che si occupa di cronaca, e quanto i mezzi di comunicazione, che siano i giornali che le televisioni, hanno in questi ultimi anni, anche sotto la spinta di alcune scelte politiche di governi locali che hanno un certo indirizzo politico, hanno dato molto più risalto a dei fatti di cronaca legati agli extracomunitari, ai nomadi, a piccoli a furti, quindi a reati legati al patrimonio, evidenziandoli in maniera esagerata, dando un risalto fortissimo e dando una connotazione politica di intervento, e hanno completamente invece tralasciato fenomeni molto più gravi, che sono quelli mafiosi e ndranghetosi, perché così facendo hanno indirizzato le persone a essere, a aver paura di reati che tutto sommato sono sì contro il patrimonio ma di piccole entità, o solamente legate alla diversità delle persone o alla paura del diverso, e non hanno minimamente valorizzato invece quelle che sono le paure vere che deve avere una persona, che sono verso questi personaggi che sono molto più pericolosi e molto più che sono la vera cancrena della società. Purtroppo devo notare che anche i giornali, le televisioni, hanno un grande interesse, forse per motivi di odio, per motivi di vendite, a esaltare questi tipi di reati e tralasciare completamente gli altri o metterli in modo marginale. Quindi volevo chiedere se i giornali come La Provincia oppure un giornalista come lei che segue queste cose ha avuto questo tipo di percezione. Allora, io parlo del caso della Provincia e poi parlo della percezione che ho io. Non lo dico perché lavoro alla Provincia, io ho lavorato anche al Corriere di Como, lì le cose funzionavano in modo un po' diverso. Questo non vuol dire che non si commettono errori, anzi spesso volentieri, quotidianamente facciamo degli errori anche nelle scelte, e all'interno della redazione c'è spesso dibattito e spesso non siamo d'accordo sul titolo che viene scelto in prima pagina, non tutti sono d'accordo, però c'è dibattito su questo aspetto. La Provincia scrive molto di questi fenomeni di cosiddetta microcriminalità. Non lo fa, e questo ve lo dico proprio ve lo garantisco, per un motivo politico, per seguire un certo trend politico. Lo fa perché è una cosa che è molto sentita dalle persone. Cioè, noi riceviamo spesso tante telefonate di persone che si sentono toccate nel proprio intimo perché hanno subito un furto in casa, perché anche banalmente il furto alla bicicletta che fa arrabbiare. Per una realtà come quella di Como, questo è sempre stato, perché tutto il resto era fino a poco tempo fa più o meno sommerso, il problema più grosso, a parte qualche omicidio ogni tanto, la strage di Erba che ha catalizzato l'attenzione, però questo dal punto di vista della cronaca e di qualche episodio di malaffare che più o meno veniva a galla grazie alle inchieste della procura, è stato un po' il problema più sentito dalle persone. E quindi si è seguito, vogliamo dire per audience, vogliamo dirlo anche per dire, perché comunque tutto sommato un giornale locale è un po' al servizio del cittadino e quindi racconta quello che il cittadino segnala e racconta le storie delle persone della porta accanto, c'è stata una grande attenzione, forse anche troppa, questo sì, non faccio fatica ad ammetterlo. Il grosso problema della criminalità organizzata è che fino adesso non abbiamo mai avuto non avevamo in mano una Bibbia del funzionamento dell'andrangheta nelle nostre zone, come è l'inchiesta Infinito. Nel momento in cui noi abbiamo potuto attingere da questo enorme faldone di inchiesta le storie per poter, perché poi funziona tutto in modo strano. Fin quando raccontavamo l'andrangheta, la mafia, le infiltrazioni su vaghi sentori, vaghi numeri, su vaghi allarmi, alla gente non gliene fregava niente. Quando abbiamo cominciato a raccontare le storie, perché sono quelle che poi la gente interessa, no? Le storie delle persone che erano coinvolte nella vicenda, le mille storie che si trovano in questi atti giudiziari, questo l'avevo portato banalmente un pezzo dell'informativa dei Ross, proprio queste qui sono le fotografie delle auto fuori dal Felice Villa di Mariano Comenzi. Ma quando abbiamo cominciato a scavare qui dentro gli atti giudiziari e a trovare le storie da raccontare, la gente ha cominciato ad essere interessata, ha cominciato a capire che non era una cosa così lontana, così vaga, così non vera. A me aveva impressionato un'intervista che La Sette aveva fatto a una consigliera comunale di opposizione del comune di Bordighera, sciolto per infiltrazione mafiosa. Questa, con grande, in modo estremamente candido, dice: io ho sempre pensato che fossero cose di laggiù, che non fossero problemi nostri, che non è, che, cioè l'andrai, sì, la mafia, cavolo, è un problema, ma non è mio, io sono qui a Bordighera. E invece, cavolo, mi sono opposta all'apertura di una sala giochi a Bordighera e hanno cominciato a mandare, ricevevo telefonate in cui mi dicevano che mi ricordavano che avevo dei figli, ricevevo il santino bruciato di San Michele Arcangelo. Ho cominciato ad aver paura seriamente, perché ho capito che non era una cosa, sbagliavo, non era una cosa di giù. Ecco, quando abbiamo cominciato e potuto scoprire queste storie e abbiamo cominciato a raccontarle, è cambiato proprio il sentimento delle persone. Tanto è vero che noi adesso stiamo scrivendo molto di andrangheta, di criminalità organizzata, tutte le volte che possiamo comunque dedichiamo molto spazio a questo tema. Lo dedicano molto anche gli altri organi di formazione, altri quotidiani, Corriere della Sera, delle firme meravigliose che parlano di criminalità organizzata e che raccontano le storie della criminalità organizzata. Probabilmente la televisione è un po' più indietro da questo punto di vista. Questo è. Io non ho mai lavorato, sì, ho lavorato saltuariamente in televisione, quindi è un mezzo di informazione che non conosco così bene. Ho visto delle belle inchieste sulla criminalità organizzata fatte in televisione, mi ricordo proprio questo della 7 che ha fatto un servizio meraviglioso, quindi penso che sia possibile fare dei servizi televisivi ben fatti, delle inchieste televisive ben fatte su questo problema. Penso a Report, penso a Lina di Reza. Scusa, ti interrompo solo per un attimo, Carlo Lucarelli, che secondo me è un fuoriclasse di questi servizi e di queste inchieste, ecco, quando ha toccato certi tasti, in particolare sul rapporto tra mafia e politica, è stato segato ed è stato censurato. Cioè, quindi è anche vero che a livello nazionale soprattutto ci sono dei poteri molto forti. Soprattutto legati proprio a legati. Non a caso, secondo me, ultimamente chi sta facendo più giornalismo di inchiesta è la 7 e parzialmente Sky, perché hanno un condizionamento, ci sarà sicuramente, però hanno come dire, un condizionamento diretto dal governo, probabilmente differente rispetto alle altre mezze di informazione. Non è che fosse stato anche il nostro errore pensare che è un problema loro e non nostro, non magari che per questo che si è diffuso in questa zona. Non ho capito l'inizio della... Il nostro errore magari è stato quello di pensare che la mafia è un problema loro, magari per questo che si è diffusa qua, no, magari si è parlato perché qua la mafia ammazza poco, noi magari anche per quello. Ok, loro, scusa, i temi loro... Giù, il discorso di Bordighera, sì. Magari anche è stato quello il discorso che poi esplode perché parlandone poco hanno lavorato in silenzio, hanno coperto tutto, il sappiato. Infatti di cronache eclatanti poi gli omicidi non è che sono stati tanti, a parte quelli per la Brianza. Quando un lavoro in silenzio la cosa si gonfia, no? Sì, sono d'accordo sul fatto che sicuramente il fatto che non ci siano stati casi così eclatanti o addirittura inchieste, come ricordava Paolo, perché adesso ci è capitata nelle mani la bomba dell'inchiesta infinita. Perché alla fine è successo quasi per caso, sbaglio? No? Sì, poi in realtà sappiamo che di violenza ce n'è stata anche nelle nostre zone, di omicidi anche cruenti, come per esempio il caso tedesco, una persona che è stata uccisa a colpi di piccone in un maneggio a Bregnano, i cui titolari tra l'altro sono stati condannati proprio settimana scorsa in primo grado nell'inchiesta infinita. Comunque ne abbiamo avuti di casi di violenza e di omicidi anche qui, perché a volte si commette l'errore, secondo me, di pensare che la mafia al nord è solo mafia economica. Non è assolutamente vero, ovunque c'è mafia c'è, perché ci sono i due aspetti che sono uno funzionale all'altro, l'aspetto dell'economia e della finanza e l'aspetto della violenza, della minaccia e dell'intimidazione. Però nello stesso tempo è anche vero che sono casi che sono emersi, anche questi omicidi, queste violenze, abbastanza recentemente. Ecco, volevo però far notare una cosa. Prima è stato detto giustamente che le responsabilità sono della politica, è vero, sono anche dei cittadini, come qualcuno ha fatto secondo me giustamente notare. Tante volte si parla di omertà, ecco, ne abbiamo parlato anche questa sera, le zero denunce di cui ha parlato il Davo Cassini, eccetera. L'omertà può essere per paura, ma può essere anche per convenienza. Ci sono due tipi di omertà. A volte, come abbiamo detto ampiamente questa sera, è la convenienza della persona o dell'imprenditore che si avvicina all'andrangheta, alla mafia, che causa l'omertà. Nello stesso tempo è anche vero che i cittadini, anche quando sanno queste cose, sappiamo che hanno giustamente paura a denunciare, a intervenire. Mi viene in mente il caso della cosiddetta operazione Bad Boys, che ha riguardato la zona di Lonate Pozzolo, dove, vicino all'aeroporto di Malpensa, dove un intero paese è stato per 10 anni oggetto di violenze, minacce, intimidazioni da parte di un clan calabrese affiliato alla 'Ndrangheta, e per 10 anni nessuno ha denunciato nulla. Queste violenze, queste minacce sono venute fuori perché un politico locale, Modesto Verderio, della Lega Nord, ha raccolto le denunce dei cittadini e lui ha trovato il coraggio di andare a denunciare. Ma si è dovuto arrivare a questo punto. Tra l'altro, lo stesso Verderio è quello che ha organizzato una fiaccolata, sempre per tornare al discorso del silenzio e dell'umanità, una fiaccolata proprio alla Nate Pozzolo contro la 'Ndrangheta, e ha partecipato pochissime persone, nessuno di Lonate Pozzolo. Quei pochi che hanno partecipato venivano tutti da fuori. Quindi sì, è vero, dalla colpa dei politici, ok, alle collusioni anche di personaggi come i vari imprenditori di cui sentiamo parlare adesso, anche molto vicini a noi, va bene, e anche la gente comune molto, molto spesso giustificata in parte dalla paura, quello che volete, però potrebbe a volte sicuramente fare qualcosa in più. Prego. Leggo solo dato per collegarmi a quello che diceva Massimo, che per fare un esempio, nel 2010 la Procura di Sanremo ha iscritto solo 43 notizie di reato per estorsione o tentata estorsione e 4 per usura, a fronte di 234 notizie di reato per attentati incendiari, quasi tutti contro ignoti, o 491 notizie di reato per varie tipologie di danneggiamento. Questo tanto per dare l'entità del... Su quest'onda, 10 anni di eventi concreti che i carabinieri non potevano conoscere. Devi aspettare la denuncia del cittadino sapendo che dietro c'è questo aspetto. Io ho lavorato all'ufficio notizie al distretto e sapevano per filo e per segno che il nonno aveva bruciato una cassetta di legno in una chiesa. Ok, è vero, e infatti quando si dice che le responsabilità sono di tutti, significa di tutti, è vero, e nello stesso tempo è vero anche che ci sono atti che puoi vedere, l'incendio lo vedi e ti puoi far nascere il dubbio se sia, cioè fenomeni di autocombustione sono piuttosto rari, per cui uno dice anche il carabinieri o le forze dell'ordine possono farsi nascere il dubbio. Altri episodi come la minaccia, come l'estorsione, sono difficili, se non c'è la denuncia del cittadino, voi capite che è difficile procedere d'ufficio, cioè è difficile che ci sia lì il carabiniere presente nel momento in cui avviene la minaccia o la richiesta, anche se l'estorsione. Comunque in parte sono d'accordo con lei. No, quel fatto lì che è successo lì a Milano due anni fa, di quella donna lì, è collaboratore di giustizia che è stata sciolto con l'acido, non è che è passato tanto. Ma io volevo fare un intervento speculare rispetto a quello della prima persona che è intervenuta questa sera, perché lui giustamente ha rivendicato il proprio orgoglio di essere calabrese. Io invece, pensando alle cose che sono state dette questa sera a proposito dell'humus che ha favorito il radicamento della criminalità organizzata dalle nostre parti, devo ammettere un certo imbarazzo nell'essere comasco e brianzolo, e vi spiego in che senso. Ci sono alcuni aspetti di lunga durata nella mentalità comasca e brianzola, alcuni luoghi comuni che sono così comuni da essere mentalità, che secondo me favoriscono il radicamento del fenomeno criminale. Mi riferisco ad esempio ad un fatto che è appunto di lunga durata, che è una diffusa vergogna, un diffuso imbarazzo nei confronti delle pezze al culo che hanno avuto i nostri nonni, i nostri bisnonni. questa vergogna, questo imbarazzo che altre popolazioni invece vivono con orgoglio, noi lo viviamo davvero come qualcosa da rimuovere. Io parlando con persone conterranee e facendo vedere loro i dati sull'immigrazione che da queste terre andava, magari anche soltanto in Svizzera, comunque anche molto lontano, specialmente nei paesi del lago, se ne andavano anche nelle Americhe. Questi dicono, lo dico in dialetto per lo traduco in italiano, erano qui che erano punta fanacut, che erano qui che la fanacut andavano via. Cioè erano quelli che emigravano perché erano incapaci o non avevano voglia molto di lavorare, d'accordo? Perché se avessero voluto, no? Primo aspetto. Secondo aspetto, un atteggiamento servile che dura ancora nei confronti dei potenti. Ma non mi riferisco semplicemente alla triade parroco, sindaco, medico, mi riferisco anche al semplice superiore, tanto per dirvene una. Faccio l'insegnante, sono stato qualche anno fa vicepresidente di una scuola, sbrigo le pratiche per far fare l'esame di idoneità a un alunno di una famiglia che conoscevo, si presenta la madre dopo due giorni con due stecche di Marlboro. Ma sei scema? Sei scema? Gli ho detto proprio così. Ma hai fatto un favore? No, ho fatto il mio dovere. Ecco, i cognomi mio e suo testimoniano una brianzolitudine toc, no? Ecco. Okay. Da vecchio lei, la vai io. Sì. Cioè, anzi il contrario. Grazie. No, no, no, non ho finito. Perché quest'altro, c'è un altro aspetto che favorisce, insieme a questo due che ho detto, il disastro. Perché se noi avessimo nei confronti del nostro territorio una considerazione migliore, probabilmente non vedremmo nella edificazione il sinonimo del progresso. E invece il mito della villetta singola, ognuno col suo bel cancellino, ognuno con la sua entrata, ognuno con la sua vita, è in sostanza la mentalità favorita dal paternalismo industriale, no? Per cui le nostre vite funzionano in modo equilibrato se sono distinte e indifferenti l'uno rispetto all'altro. È la negazione della città, la negazione della politica, la negazione della relazione come elemento, è l'indifferenza, è quella cosa che poi partorisce quei mostri tipo, se vi citava anche il signore di prima, la politica è sporca, sono tutti uguali, oppure la cosa che diceva Giulio, la mafia è una cosa da terroni, e quindi io non sono terrorista, cosa me ne frega? Grazie. Ok, prova a replicare brevemente. Sì. Allora, se vogliamo veramente eguagliare il fenomeno mafioso a largo raggio, no? Noi dei nostri dranghettisti dovremmo quasi quasi pensare che sono una molecola in mezzo al mare, se ci dovessimo riferire ai guardaglini, ai bisignani, ai papa e a quant'altro. Se questi qui sono capaci con i tesori del nostro Stato, di cui noi cittadini siamo i proprietari, noi abbiamo il diritto di fare di questa grande azienda uno strumento di fondi neri che servono a questo, a quello, a quello. Sentivo l'affermazione l'altra sera, ma l'onorevole Casini cosa ne faceva di 200.000 euro? Doveva comprarsi un box a Roma. Ha sposato la figlia del più ricco d'Italia. Ma perché Casini, oltre a fare il guardiano degli interessi del suocero, di Caltagirone, c'è qualcuno qua dentro che mi sa dire qual è la professione che Casini ha svolto nella sua vita? Io ho 65 anni, lui è più giovane di me. L'ho conosciuto da bambino quando faceva il portaborsa di Forlani, va bene, e da lì è arrivato adesso ad ereggersi a pilastro portante della politica. Sono 40 anni che siedo solo in questo Stato E come lui ci sono seduti tutti gli altri, come i boss, come tutti quegli altri. I boss non sono altro, va bene, che quelle persone che col loro modo di urlare, perché non sono in grado di fare politica, perché quelli, l'unico scopo che hanno nel loro linguaggio è quello di disintoriare di l'opinione pubblica per fargli capire il meno possibile. Adesso ci fanno formatori della difesa delle pensioni. Attenzione a non trasformare un argomento assolutamente sacrosanto, una denuncia sacrosanta nei confronti di persone che poi dopo, una volta che sì, sappiamo benissimo che in Italia, non trasformarla in una scusa, in una giustificazione e in un alibi per tutto. Perché finché, noi, se no, finché nell'ordinamento abbiamo il terzo grado di giudizio, fai in tempo a morire uno per poi essere considerato innocente. Infatti è proprio questo che stiamo dicendo. È vero che la politica potrebbe essere molto più attenta su tante cose. Ecco, attenzione, non so se è questo che volevi dire, Paolo, a comunque tenere distinti i piani del discorso, perché la politica ha responsabilità importanti sicuramente. Ciascuno di noi però può, secondo me, prendersi le proprie responsabilità nella quotidianità. Perché a volte dentro un rischio quello di dire che in realtà me la prendo con loro oppure rubano, perché poi è il percorso mentale è lo stesso, rubano loro, quindi sono autorizzato a fare la sintesi, il percorso la sintesi mentale dovrebbe è essere quella, la politica sta a servizio del cittadino e non al comando. Assolutamente, signora. Riportando appunto il discorso sulla responsabilità del cittadino, il valore della legalità che viene persa, il fatto che le inchieste partano con zero denunce, senza fare gli eroi, perché è difficile fare gli eroi, non lo chiederei a nessuno, non sono riuscita a chiederlo neanche a me stessa, e riportando il discorso a cose che mi sono successe personalmente, io mi chiedo, negli anni 80 lavoravo a Milano in una società di investimento, non si chiamavano così, però erano agenti di campo. Quando arrivavano quelli che dovevano investire e di cui dovevamo gestire il patrimonio, portando i soldi nelle cassette, nelle scatole delle scarpe, che cosa avrei dovuto fare? Dovevo andare da un giudice? Avrei probabilmente perso immediatamente il lavoro, dovevo fare l'eroe. Quando sento che una persona che conosco deve portare per una ditta di floricoltura, florovivestica, al mercato ortofrutticolo di Milano 40.000 euro in contante, che cosa doveva fare quella persona? Portarli direttamente da un giudice? Un altro esempio, quando so che nel comune dove abitavo quando ero ragazza doveva essere acquistato un terreno e una villa dal comune per farlo diventare, era sul lago, un lido per la popolazione, ma arriva una lettera da Roma che impedisce la cosa e li obbliga a vendere a un'associazione, una fondazione di Emirati Sauditi, Emirati Arabi, i quali avevano bisogno di avere una postazione sul lago che fosse facilmente facesse da base con l'elicottero per arrivare in Svizzera.